C'è chi mi vuole come vuole, un po' più santo, più criminale, un po' più nuovo, un po' più uguale, mi vuole come vuole. C'è chi mi vuole per cliente, chi non mi vuole mai per niente, e c'è chi vuole le mie scuse, e ciò che sono l'ha offeso. Di un po' te come ti vogliono, di un po' tu come ti vuoi, tu come ti vuoi. Sono vivo abbastanza, sono vivo abbastanza, verde qua, comunque vada, sempre sulla mia strada. C'è chi mi vuole più me stesso e più profondo, più maledetto, e bravo padre, bravo a letto, c'è chi mi vuole perfetto. Di un po' te